America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, questo scampanellio di Wall Street avrei dovuto farvelo sentire sabato se avessimo avuto una trasmissione, lo scampanellio di venerdì. Apro su questo scampanellio perché venerdì è stata una giornata non bella, una giornata svolta, una giornata che delineerà questa settimana che arriva. L'indice Dow Jones ha perso 274 punti, il 2,2%, è stata la perdita peggiore dell'anno, sono stati azzerati tutti i guadagni del 2012. Il contagio è arrivato all'America, questo per dire che cosa? Per dire che l'austerità ha fallito e che nei numeri, nell'umore, nelle reazioni dei mercati, da Pechino a Washington, alle capitali europee, si è ufficializzato quel che vado dicendo da tempo, quel che molti dicono da tempo, con l'Europa in camera di rianimazione, Stati Uniti e Cina non ce la fanno più a trainare da soli la congiuntura mondiale. Right now this country is still fighting our way back from the worst economic crisis since the Great Depression. The economy is growing again, but it's not growing as fast as we'd like. Perché venerdì è stata la giornata svolta? Beh, perché abbiamo avuto una serie di dati, soprattutto a partire dall'America, che hanno cambiato improvvisamente lo scenario. Il dato peggiore è stato quello sull'occupazione americana. L'economia americana ha creato 69.000 nuovi salariati dipendenti in maggio. Gli analisti fino a poche ore prima ne aspettavano 155.000. Questo, tra l'altro, aprendo una parentesi, solleva un dubbio sulla credibilità di questi analisti che poi creano aspettative false sul mercato. Il problema qual è? È che con un tasso di crescita dell'occupazione di questo genere l'economia americana non potrà continuare a crescere e dunque qualcuno già parla di recessione, forse non subito, forse fra 6 mesi, fra 8 mesi, però c'è stata una svolta in quella dinamica che doveva essere una dinamica di crescita per l'economia americana. E questo preoccupa perché l'America doveva svolgere un ruolo di traino, preoccupa perché l'America ha un problema di disavanzo pubblico, entro la fine dell'anno dovrà risolvere due nodi centrali, un disavanzo pubblico del 10% sul PIL e un debito del 100% del PIL. Eppure, che cosa succede? In questo contesto di incertezza, di sfiducia, di spirale negativa in Europa, i tassi sui buoni del tesoro americano, sul decennale americano, sono scesi al minimo storico, a 1,44. È abbastanza straordinario, l'1,44% sul tasso decennale del tesoro americano. Questo naturalmente aiuta l'economia americana, ma ci si deve chiedere quanto potrà durare questa situazione e soprattutto quali saranno le conseguenze politiche di un avvitamento al ribasso dell'economia americana. Barack Obama è in giro a fare campagna elettorale, devo dire non molla, pensate, era a Chicago un paio di giorni fa e ha dormito a casa sua, è stata soltanto l'11ª volta da quando è presidente che ha dormito a casa a Chicago, ecco, gira come una trottola, però anche Barack Obama si rende conto che se l'economia americana peggiora per lui sarà sempre più difficile riuscire a tenere il passo contro Mitt Romney e naturalmente Mitt Romney ne approfitta. We do remember when Barack Obama came to New Hampshire 4 years ago, he promised to bring people together, he promised to change the broken system in Washington, he promised to improve our nation. Today we're faced with the disappointing record of a failed president. Mitt Romney attacca Barack Obama nel suo tallone d'Achille, nel suo punto più debole, sul fronte economico. Qualche giorno fa è andato davanti a Solyndra, un'azienda specializzata in energia solare che aveva ricevuto 500 milioni di aiuti dal governo federale, da un programma che aveva voluto Barack Obama, un programma per lo sviluppo e per la concessione di incentivi economici che avrebbero prodotto allo stesso tempo crescita dell'occupazione, crescita dell'economia e progressi sul fronte energetico. Ebbene, che è successo? Solyndra è fallita. È stato uno dei più gravi scandali per l'amministrazione Obama, anche perché vi sono dei sospetti di collusione e magari di qualche leggerezza che non avrebbe dovuto verificarsi. Romney dunque all'attacco e si rafforza il suo messaggio, il messaggio che punta su questo. Lui è un manager, è un uomo che conosce le dinamiche dell'economia, che può restituire quella fiducia che manca oggi al mondo degli affari, perché in effetti le aziende non investono, le aziende americane, ricordiamolo, hanno una quantità enorme di contanti, questo è uno dei punti rassicuranti per l'economia americana. Le aziende americane hanno un surplus di cash, pensiamo soltanto all'Apple Computer che ha quasi 100 miliardi di dollari di contanti in bilancio, e le banche americane, nonostante le perdite di JP Morgan Chase, insomma perdita brutta quella di qualche tempo fa su un'operazione su prodotti derivati, ecco, nonostante questo le banche americane hanno una posizione di capitale molto forte. Cosa manca? Manca quell'iniezione di fiducia. Romney continua ad avanzare lungo il percorso elettorale rafforzando questo suo messaggio. Obama non aiuterà l'economia perché non dà quell'iniezione di ottimismo agli imprenditori e ai manager. E devo dire, su questo Romney trova terreno fertile, perché in effetti l'establishment americano, il mondo imprenditoriale, non si fida più di Barack Obama, e quando poi, a fronte di questa mancanza di fiducia da parte dell'establishment, seguono dati economici così negativi, le cose non si mettono bene per la Casa Bianca. Some of the headwinds that have been affecting our recovery, such as the housing market, financial stresses, credit tightness, and so on, some of those things we hope will be lifting over time and will allow the economy to grow more quickly and approach more quickly its longer run full employment level. Ben Bernanke, a questo punto le speranze di Barack Obama, devo dire le speranze un po' di tutti noi, sono nella Banca Centrale Americana. Che cosa farà Bernanke? Secondo me alla fine di giugno ci sarà qualche novità, perché l'operazione Twist terminerà e ci sarà bisogno di qualche altra manovra accomodante. La speranza che qualcosa capiti alla Fed però non può restare isolata. La mia speranza è che qualcosa capiti anche alla Banca Centrale Europea. C'è molto movimento in Europa, la Fed da sola potrà fare relativamente poco, perché ha già fatto moltissimo e abbiamo visto come l'economia americana stia faticando. In Cina abbiamo visto una caduta della produzione industriale dal 49,3 al 48,7, abbiamo avuto l'indice PMI dei direttori acquisto che è sceso a 50,2, questo di nuovo venerdì, ed ecco dunque che si chiude il ciclo di debolezza non soltanto in Europa ma in America, in Cina soprattutto. E le tre gambe su cui poggia lo sviluppo mondiale purtroppo sono gambe d'argilla. Devo ammettere con riluttanza che la colpa principale di questa situazione oggi è una colpa europea. Siamo stati lenti nella reazione, la Germania è chiusa in un modello di austerità che, come dicevo in apertura, ha fallito, ha bisogno di aprire, ha approfittato troppo di quel che le ha dato il resto dell'Europa in termini di crescita delle esportazioni, di crescita dell'occupazione, per non restituire qualche cosa. Dunque sì, la speranza è che la Fed faccia qualcosa, ma sarà credo inutile se dall'Europa non giungeranno dei segnali concreti e delle risposte all'appello accorato di Mario Draghi, che ci siano prima di tutto delle garanzie per le banche. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive questi tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Bad, il leggendario album di Michael Jackson, compie 25 anni. Ci sarà una versione deluxe il 18 settembre, l'hanno annunciata proprio l'altro giorno, per celebrare questo quarto di secolo. Ci saranno tre CD, un DVD di un concerto a Wembley, pensate, a Londra, dove fra gli scatenatissimi fan c'era anche la principessa Diana. Michael Jackson, Bad. Bad.